e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Oggi ho proprio bisogno della vostra compagnia, quindi mi aspetto tante telefonate da parte vostra all'800 24 00 24. Mi ha lasciata sola Nicoletta, tornerà però naturalmente domani qui a farmi compagnia a Cuore Denari, quindi come vi ribadisco oggi ho bisogno della vostra. Torniamo su un tema a cui a Cuore Denari abbiamo dedicato puntate e puntate: la tassazione sulla casa, questione da cui potremmo prendere presto le distanze, visto che nella legge di stabilità il governo ha messo in campo l'abolizione della TASI. Vedremo nelle prossime settimane come finiranno le cose. Per il momento, però, per il 2015 il pagamento di questa tassa è ancora previsto. E ad un mese dalla scadenza del versamento del saldo, che lo ricordiamo è il 16 dicembre, ci sono ancora centinaia di cittadini contribuenti che brancolano davvero nel buio e non sanno quanto dovranno pagare. Perché questo? Perché molti comuni hanno approvato le delibere con la fissazione appunto delle aliquote con grande ritardo. La loro scadenza era fissata il 30 luglio, ma in realtà appunto queste decisioni sono arrivate all'indomani di questa scadenza, nelle settimane successive, tra agosto, settembre, addirittura per qualche comune la decisione è stata presa in ottobre. E allora, queste delibere sono valide o no? Il cittadino che cosa deve fare? In realtà si è ingaggiato un vero e proprio braccio di ferro fra comuni e governo e cercheremo allora di capire quanti comuni sono in questa situazione e cosa succederà nelle prossime settimane. A proposito di tasse, nella seconda parte del programma per il tema di cuore parleremo di una tassa che riguarda la nostra salute, il grasso addominale, quella che comunemente chiamiamo pancetta. Un nuovo studio pubblicato su Annals of Internal Medicine ha dimostrato come l'eccesso di grasso sulla pancia, anche in una persona apparentemente magra, è un importante fattore di rischio almeno quanto il sovrappeso. E allora, anche su questo argomento, 800 24 00 24 potete raccontarci se volete che tipo di fisico avete, siete panciuti o se non volete proprio rispondere a questa domanda che vi sembra un po' troppo diretta, ve la riformulo in un altro modo: il vostro fisico è più simile ad una pera, ad una mela o a un altro tipo di frutto? Con il nostro esperto di strategie alimentari e consigli sull'attività fisica naturalmente affronteremo tutti questi argomenti. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io sono pronta e tu, tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna ed in città. E tanti auguri soprattutto a tutti coloro che ancora non sanno quanto dovranno versare di TASI in saldo entro il 16 dicembre. Da Trieste in giù, qui non si sa davvero chi è pronto o chi no fra i comuni italiani. Ad un mese della scadenza del versamento del saldo della TASI, la famigerata tassa sui servizi indivisibili accoppiata all'IMU per quei contribuenti chiamati a pagarle, bene, ad un mese era questa scadenza, ci sono ancora centinaia di cittadini contribuenti che brancolano nel buio e non sanno quanto dovranno pagare. Per tutto l'anno ci siamo trascinati la questione dei comuni in ritardo con l'approvazione delle delibere in cui dovevano essere fissate le aliquote. Questi comuni le hanno approvate fuori dal limite fissato dal governo, era il 30 luglio, e spesso le hanno anche sensibilmente maggiorate rispetto a quelle che erano in vigore lo scorso anno. E allora, sono valide o no? Il Ministero dell'Economia ha chiesto una sospensiva di queste delibere, quindi abbiamo l'ennesimo braccio di ferro fra comuni e governo, e in mezzo il povero cittadino che non sa quanto dovrà pagare, rischia di trovarsi anche di fronte ad un bel regalone di Natale, non proprio nell'accezione positiva del termine. Nel vostro comune che cosa succede? L'avete capito? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Noi stamattina dobbiamo fare un punto della situazione con Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, che salutiamo. Cristiano, ben ritrovato. Buongiorno Deborah, a tutti voi. E grazie anche per essere ritornato con noi a Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti. Ben ritrovato anche lei. Stamattina mi sto impaperando, sarà il tempo, non lo so, mi va di traverso la lingua, quindi dovete aiutarmi ancora, sarà la mancanza di Nicoletta. Buongiorno Mion anche a lei. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. ascoltatori. E allora ho ricordato il numero verde per i nostri ascoltatori, naturalmente per le vostre considerazioni sull'argomento potete anche scriverci al 349-238-6666, potete animare il dibattito sui nostri social network, sulle nostre pagine dei social network, su Facebook e su Twitter. Cristiano, la vicenda, come ricordava nei giorni scorsi anche Gianni Trovati delle Sole 24 Ore, sulle Sole 24 Ore, che ritorna sull'argomento anche questa mattina, poi vi ricorderò anche, vi spiegherò anche con quali novità che sarebbero allo studio della legge di stabilità. Questa vicenda, dicevo, riguarda ben 866 comuni, autori di ben 2162 delibere approvate dopo la scadenza del 30 luglio. In queste località i cittadini non sanno ancora cosa dovranno fare. Ci fai tu un punto della situazione? D'accordo. Allora, ricordiamo intanto che cosa è successo a giugno, perché a giugno si è pagato l'acconto sull'IMU e sulla TASI e, secondo quanto stabilisce la normativa, tutti i cittadini hanno fatto riferimento tranquillamente alle delibere adottate dai comuni per il 2014. Quindi tutto tranquillo, per il pagamento dell'acconto nessun problema. Poi i comuni avevano tempo fino al 30 di luglio per approvare le delibere relative al 2015, che sono quelle sulla base delle quali si deve poi pagare il saldo dell'imposta, quindi il saldo da versare al 16 di dicembre, andando a conguaglio nel caso ci siano stati nel 2015 eventuali aumenti. Che cosa è accaduto? Che circa 9 comuni su 10, noi sappiamo che i comuni italiani sono poco più di 8.000 e i ritardatari sono 866, quindi 9 comuni su 10 hanno fatto il loro lavoro in tempo e quindi in questi comuni non ci sono problemi. Come li si riconosce? Andando sul sito ufficiale delle finanze, www.finanze.it, c'è un bottone sulla destra da cui si possono scaricare le delibere dei comuni di proprio interesse. Lì, nel momento in cui si vede la delibera, c'è una casellina importante da guardare, che è data documento. Allora, se la data di quel documento è pari al 30 luglio o inferiore, noi siamo tranquilli, perché vuol dire che il comune ha adottato la delibera in tempo. Se invece la data è successiva, e questo capita come dicevamo in un comune su 10, qui dovremo aspettare che si chiarisca un attimino la situazione, perché abbiamo una delibera che per il comune verosimilmente è valida, ma per la legge attualmente no, a meno che non arrivi una norma di legge che in qualche modo copre queste delibere e quindi le rende valide ai fini del pagamento. Esatto, del saldo. È stata proprio definita una sorta di sanatoria ritardata per le delibere comunali su IMU e TASI che sono state appunto approvate dopo il 30 luglio. Per la verità la Commissione Bilancio del Senato ha inserito una sorta di salvagente in extremis in legge di stabilità, ma non so se appunto alla Camera questa sanatoria ritardata, come la ribattezza stamattina Gianni Trovati, essere destinata a rimanere o a cadere. Lo vedremo a breve. Entro quanto, peraltro, Cristiano, potremo sapere qualcosa di più su questo? Ma vedremo, perché purtroppo la legge di stabilità verrà approvata in via definitiva solo nelle prossime settimane, potrebbe essere approvata a ridosso del 16 dicembre o anche dopo. Quindi diciamo che la legge di stabilità non sarebbe il veicolo corretto per andare a chiarire questo problema, perché entra in vigore oltretutto dal 1 gennaio 2016. Esatto, il punto è proprio quindi quello, quando noi arriveremo a pagare, a meno che non si trovi insomma il modo di chiarire la cosa con un comunicato, ma quando noi andremo a pagare al 16 di dicembre sarà ancora valida la legge precedente, la legge attuale, che ci dice che quelle delibere non valgono. Ad aggravare il pasticcio c'è che comunque queste delibere in larga parte sono pubblicate sul sito ufficiale delle finanze, quindi bisogna fare attenzione quando le si va a vedere, guardare bene la data e capire se il proprio comune è uno di quelli a rischio oppure no. Certo. Ripeto, tra i capoluoghi sono una decina quelli che hanno il problema, tra i capoluoghi di provincia, per il resto poi sono molti comuni molto piccoli. Ecco. Allora, tra l'altro, oltre al fatto che il tentativo di sanatoria appunto è stato inserito al Senato nella legge di stabilità che entrerebbe in vigore dal 1 gennaio prossimo, in realtà questa sanatoria poi è stata tentata in ogni provvedimento, compreso quello anche sulla voluntary disclosure, dal quale poi è stata stralciata in aula al Senato dal presidente Grasso. È stata inserita anche nel salva regioni, che era stato approvato appunto un paio di settimane fa, ma anche in questo caso si è sempre scontrata con il no di Palazzo Chigi, quindi un braccio di ferro sul quale poi chiederemo chiarimenti anche ad un altro ospite nella seconda parte della trasmissione. Prima di andare alle questioni tecniche da affrontare con Mirko Mion di Agefis, o Agefis come è noto, io non mi ricordo mai l'accento dove va correttamente messo, ma in ogni caso è l'associazione dei geometri fiscalisti, direi che è momento di sentire anche il traffico, cosa succede sulle città italiane. Ci risentiamo tra pochissimo. Cuore e denari. 3x5, 25, 6x3, 33, 2x8, 48, 3x9, 29. A Cuore Denari stiamo facendo i conti con la TASI, la tassa sui servizi indivisibili. Dovremmo versare il saldo di questa imposta entro il 16 dicembre, ma in realtà non è così per tutti i comuni, perché circa 866 hanno approvato le delibere con le aliquote definitive per questa imposta dopo la scadenza che il governo aveva dato entro il 30 luglio. Pertanto c'è questo regime provvisorio che non si sa ancora bene come che tipo di implicazioni comporterà per i contribuenti chiamati naturalmente a versare il saldo. E allora come si paga, quanto, quando? Come sempre aspettiamo anche le vostre considerazioni all'800 24 00 24. Mirko Mion, presidente di Agefis, stavamo appunto spiegandoli questo ritardo ai nostri ascoltatori. Cristiano Dell'Oss ci diceva che in realtà è una condizione che riguarda prevalentemente piccoli comuni, ma in realtà ce ne sono anche di noti, di grandi, e leggevo anche che alcuni comuni hanno beneficiato dell'approvazione di una proroga territoriale, e questa proroga territoriale riguardava soprattutto alcuni comuni siciliani, è così? Sì, in effetti c'è stata, come dire, questa applicazione a geografia variabile, dove i comuni legati alla regione Sicilia hanno beneficiato appunto di questa proroga al 30 di settembre, che non è più che nemmeno la proroga che è stata effettuata anche lo scorso anno, perché vale la pena di ricordare che anche lo scorso anno accadde più o meno la stessa cosa, dove ci fu una proroga per tutti, però in questo caso i comuni, non al 30 di luglio ma al 30 di settembre. Quindi, come dicevamo poco fa, insomma, nel panorama della confusione globale alcune situazioni sono chiare per tutti quei comuni che hanno deliberato per tempo, quindi già per l'acconto del 16 di giugno, mentre invece per altri comuni, quelli diciamo che ritardatari ma all'interno del range entro il 30 di luglio, l'opportunità per i cittadini è quello di andare a conguagliare il pagamento della TASI con la nuova delibera. Per tutti coloro che sono andati oltre il 30 di luglio sicuramente sarà necessaria una sanatoria che allo stato attuale non si sa bene dove possa trovare spazio, dove possa, all'interno, ecco, di quale veicolo. Lo chiederemo all'ospite che ci raggiungerà dopo le 11, ve lo anticipo già, Guido Castelli, presidente di IFEL ANCI, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, appunto dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che è direttamente investito della situazione. Per i comuni invece, Mion, che hanno approvato secondo tempi regolari appunto le delibere, secondo quanto dettato dal governo, quindi entro il 30 luglio, che tipo di situazione possiamo raccontare ai nostri ascoltatori, cittadini, contribuenti? Questi comuni hanno aumentato le aliquote rispetto allo scorso anno, e quindi il saldo di dicembre sarà doloroso per i contribuenti all'ascolto, oppure tutto sommato la rata sarà pari a quella dell'acconto versato in giugno? Allora, a parte, come dire, dei casi sporadici con dei piccoli aumenti, sostanzialmente ci troviamo di fronte a una situazione più o meno analoga a quella dello scorso anno, o addirittura in qualche caso possiamo trovare delle situazioni migliorative. Ecco, possiamo dire rispetto... diciamo che quelli che hanno varato la delibera secondo i tempi fissati dal governo sono quelli che non avevano bisogno di fare drastiche rivoluzioni di bilancio, no? Quindi di evidentemente aumentare le aliquote, forse per questo che molti comuni sono a posto, perché avevano una situazione... Probabilmente potrebbe essere una chiave di lettura, oppure anche una seconda chiave di lettura, che sedimentatasi la TASI e quindi un po' tutto il parco delle imposte sugli immobili nel 2014, i comuni performanti, quelli che hanno deliberato per tempo, erano appunto in grado di fare una valutazione coerente con quello che si tratta poi di inserire all'interno di un bilancio preventivo, perché ricordiamo che la normativa a carattere generale prevede che i comuni vadano a deliberare il bilancio bilancio preventivo entro il 31/12 di ogni anno, poi certo. ogni anno viene posticipato prima marzo, poi viene posticipato successivamente al mese di maggio, poi come abbiamo detto il 30 di luglio, addirittura il 30 di settembre, dove poi in definitiva si tratterebbe più che di fare un bilancio preventivo, di fare un bilancio a consuntivo. A consuntivo, infatti. 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione per raccontarci se avete già un'idea più o meno chiara di quello che sarà il saldo della TASI che dovrete versare il 16 dicembre, o se siete abitanti di uno di questi 866 comuni che ancora che hanno deliberato ma lo hanno fatto con ritardo e pertanto non hanno ancora il lasciapassare da parte del governo sulle nuove aliquote. Sentirei il caso di Rosanna da Modena, che saluto. Rosanna, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno. No, io volevo dare la mia testimonianza in questo senso, che sono già andata a fare i conti per la seconda rata che scade in dicembre sì. a un ente di Modena e a mia bella sorpresa mi hanno anche diminuito. Mm. Infatti per qualche comune in realtà c'è anche questa bella novità. Rosanna, quanto ha risparmiato questa? Ho paura. Infatti. Rosanna, quanto in meno paga rispetto all'acconto di giugno? Circa sui 100-110, adesso esattamente mi ricordo più la prima rata. È un bel regalo di Natale, direi, in questo caso. Sì, Rosanna, infatti. Grazie. Grazie molte per la sua testimonianza. Cristiano, addirittura per qualche comune c'è questa bella notizia, insomma. Sì, in alcuni casi le delibere che sono state adottate dai comuni nel 2015 vanno a limare, a ridurre il prelievo rispetto al 2014. Questo perché l'anno scorso era il primo anno di applicazione della TASI e in alcuni casi i comuni non avevano ben chiaro quale gettito avrebbero potuto incassare dal tributo e nel dubbio hanno un pochino alzato le aliquote. È una cosa che non dovrebbe succedere, ma che a volte può capitare nel momento in cui l'ufficio ragioneria del comune non è sicuro di riuscire a coprire tutte le proprie spese già programmate e quindi alza un pochino il livello del prelievo. Certo. Va detto anche che anche alcune delle delibere ritardatarie, per esempio quella di Lanusei, prevedono una riduzione del prelievo. La maggior parte sono in aumento, come giustamente dicevate, perché sono comuni che sono arrivati dopo e avevano necessità, diciamo, di colmare un divario in bilancio. Ma c'è anche qualche delibera tardiva che va a ridurre il prelievo e questo genera un'ulteriore incertezza da parte dei cittadini e anche un piccolo paradosso, perché in questo caso il proprietario vorrebbe poterla usare ma non sa ancora se può farlo. Allora, devo già andare in pausa, è tempo di ascoltare dopo la pubblicità il nostro giornale radio delle 11. È pronto anche Cesare da Lecce, che a questo punto rinvio la seconda parte della trasmissione, gli chiedo qualche minuto di pazienza. Vi segnalo anche quello che ci scrive Marino da Padova al 349-238-6666, ci racconta che ha pagato conto e saldo in giugno, sono a posto o devo preoccuparmi? Effettivamente, per chi si dice convinto di aver chiuso la partita della TASI, magari bisognerà capire se si riapre per qualche comune. E poi naturalmente nella seconda parte della trasmissione commenteremo anche quest'ultima ipotesi allo studio del governo per completare il pacchetto di modifica al capitolo casa della legge di stabilità. Si parla di uno stop alle tasse sulla casa per le abitazioni lasciate da chi si separa all'ex coniuge o ai figli, ma solo nel caso in cui si sia proprietari di un solo immobile. Poi c'è anche l'ipotesi di uno sconto IMU sulle seconde case concesse in comodato d'uso ai figli. Insomma, tassazione sulla casa sempre in movimento, ne parliamo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Luglio si veste di novembre, se non arrivi tu. Era il 30 luglio il termine entro il quale molti comuni italiani avrebbero dovuto approvare le aliquote definitive per il versamento della TASI. Molti hanno fatto tardi, in alcuni casi uscendo dal limite fissato, e quindi da settimane si parla di una sanatoria che il governo tarda ad approvare in un braccio di ferro vero e proprio con i comuni italiani, anche perché non si capisce bene tecnicamente il provvedimento corretto nel quale dovrebbe essere inserita questa sanatoria. Si parla della legge di stabilità, che però entrerebbe in vigore a gennaio. gennaio, di conseguenza, anche se fossero inserite dentro queste nuove delibere, non potrebbero entrare in vigore prima dell'anno prossimo. Allora, insomma, un po' di pasticci. Voi in che situazione vi trovate? In quale comune risiedete? 800 24 00 24, il numero verde per raccontarci il vostro caso, prima di sentire Cesare da Lecce. E di ricordarvi anche che con noi stamattina ci sono Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore, Mirko Mion, presidente di Agefis. Do il mio buongiorno anche ad un altro ospite, Guido Castelli, presidente di IFEL ANCI, oltre che sindaco di Ascoli, quindi conterraneo marchigiano. Mi fa particolarmente piacere. Castelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Abbiamo chiamato più volte in causa i comuni e quindi ci interessa capire anche dal vostro punto di vista qual è la situazione. Allora, intanto le faccio una batteria di domande, Castelli, così almeno rispondiamo tutto in una volta. Le chiedo: tutti i comuni hanno stabilito le aliquote, comprendendo anche quelli che lo hanno fatto superando appunto la scadenza che era stata fissata dal governo il 30 luglio, o ancora qualcuno ne manca all'appello? A che punto è questo vostro presunto braccio di ferro con il governo, e lei quale provvedimento corretto vedrebbe per inserire questa sanatoria ritardataria, come la definisce Il Sole 24 Ore? Allora, premesso che la TASI ormai ha gli ultimi rantoli, visto che il prossimo anno finalmente non ci saranno più valutazioni e discrasie come quelle che, ahimè, stiamo registrando in questi giorni, bisogna dire che innanzitutto i comuni ormai hanno deliberato ormai la pressoché totalità le aliquote, però io vorrei dire che dietro questo ritardo, che adombra, come dire, la responsabilità di questi sindaci cattivi che si alzano con il martello per dare colpi al contribuente, la picconata fiscale contribuente. Allora, cosa succede? Succede che l'anno su, in quest'anno, circa 1000 comuni sono andati al voto, e buona parte degli 844 che non hanno provveduto l'approvazione delle tariffe. Ah, non sono 866, sono 844. 850, cioè, sì, vabbè, insomma, credo che la siamo lento. Siamo su quel versante. Quindi una buona parte di questi in realtà aveva verificato la legittima elezione dei rispettivi sindaci qualche giorno prima della fatidica data del 30 luglio. Quindi sono stati proprio problemi semplici, regolamentari, che i ritardi del, in questo caso, del governo nel semplificare e, come dire, assentire questi piccoli sforamenti si sarebbero evitati se solo con un provvedimento semplice, ad esempio, non si fosse circondata di tanta, tra virgolette, crudeltà quei 200 comuni degli 860 che hanno approvato invece che il 30 il 31, perché semplicemente si stabiliva la fine del... Qualcuno ha interpretato luglio come 31 invece che 30, per dire come spesso dietro i grandi dibattiti, ma anche delle banalità. Quindi 200-250 comuni hanno in realtà approvato le tariffe 24 ore dopo la scadenza. La scadenza. Una, quindi, parte... queste potevano essere, come dire, ottenere un via libera con un po' più di serenità per tutti gli Ecco. Poi c'è un secondo tema, il tema appunto di chi era andato al voto, e che, come nel caso del mio amico Nicola Giorgino di Andria, si era visto convalidare dall'ufficio centrale delle elezioni della Puglia la propria elezione 15 giorni prima, quando materialmente non era possibile dare corso alle procedure di approvazione del bilancio. Poi c'è un altro tema però che non sempre viene ricordato, che il quadro di finanza pubblica che consentiva agli amministratori italiani di approvare i bilanci, in realtà al 30 luglio, data fatidica ultima per approvare le tariffe, non era neanche del tutto completato, perché era in corso di lettura il decreto 78, che aveva all'interno del proprio disciplinare argomenti non di secondario momento rispetto a quelle che sono le previsioni e alle organizzazioni che incombe alla responsabilità dei sindaci gestire, ovvero ad esempio è stato il decreto 78 approvato ad agosto, quindi dopo la scadenza del 30 luglio, a disciplinare l'assegnazione di 530 milioni in favore dei comuni, che serviva per un'altra questione relativa al passaggio dall'IMU alla TASI. Cosa voglio dire? Che è vero che molti comuni hanno sforato, però ma avevano tutte le loro brave giustificazioni, c'era dice qualcosa di diverso rispetto alla furia pastaiola che qualcuno descrive nei giornali di questi giorni. Ecco, ma in ogni caso, sindaco Castelli o presidente Castelli, se la sanatoria non dovesse arrivare, che cosa diranno i sindaci interessati e i propri cittadini? Ma sono tutti chiaramente preoccupati, in questo senso, che gli equilibri che loro hanno firmato per l'esercizio 2015 si fondano anche su queste modifiche alle tariffe, che però vorrei dire non tutte gli 860 comuni hanno aumentato le tariffe, perché ce ne sono alcuni addirittura che o l'hanno mantenuti, perché il sospetto è anche quello che quelli che sono in ritardo è perché devono dare delle cattive notizie ai propri cittadini. Questa è un'altra leggenda nera da sfatare, perché una parte consistente di questi comuni ha semplicemente mantenuto le tariffe e le aliquote del 2014, in altri casi addirittura sono stati addirittura abbassati complessivamente. Ci sono, sì, l'abbiamo anche misure, detto nella prima parte della trasmissione, sì. Quindi ne ripeto, io credo che si debba dare un'informazione corretta, nel senso che i sindaci e i comuni non sono l'Arcadia dove tutto va bene, tutto funziona, per carità di Dio, però sotto questo profilo il fatto che uno approva la tariffa il 31 invece del 30 mi sembra meritevole. Questo è chiaro. Sindaco, incontrerete a breve il governo per stabilire una linea d'azione, per stabilire qualcosa, per cercare di capire se più o meno questa sanatoria possa entrare in qualche provvedimento, ma mi pare che l'ultimo carro da poter prendere comunque la legge di stabilità, e quindi tutte le aliquote entreranno in vigore dal 1 gennaio in avanti. Avete in programma qualche incontro a breve? Allora, noi abbiamo più volte incontrato il governo e devo dire che si è dimostrato sempre molto trattario rispetto a questo differimento, a questa, fra virgolette, sanatoria, ripeto, non di aumenti ma di delibere formali. Noi non capiamo tanta rigidità, anche perché, ripeto, lo stesso governo spesso ha accumulato ritardi ancora più importanti e significativi, quindi ad oggi non sono previsti contatti. Il governo sa qual è la posizione dell'ANCI, che è quella appunto di dare un po' di regolarità al rapporto contribuente cittadino, soprattutto nell'ultimo anno, ripeto, della TASI. Devo dire che il fatto che una soluzione sia stata prospettata nella legge di stabilità e non nei decreti, l'ultimo, quello di venerdì, lascia presagire che a Palazzo Chigi vogliano tenere il punto, ripeto, enfatizzando molto questo aspetto, mentre invece i parlamentari sono, ripeto, un pochino più sensibili verso quello che sarebbe, io credo, un atto dovuto, perché alla fine, ripeto, dietro queste aliquote non sempre si nascondono, ripeto, aumenti o vessazioni fiscali, ma semplicemente fatti formali che non devono accadere, per carità di Dio, ma una volta che si sono determinati, visto, come dire, il carattere provvisorio e frastagliato dell'insieme di norme sulla finanza pubblica, mi sembra che non sia un peccato mortale voler, come dire, sistemare in maniera tale che il 2016 possa avere il debutto di un'Italia senza TASI, ma anche senza nevrosi fiscali. Sì. Cristiano Dell'Oste, hai qualche domanda per Guido Castelli? Qualche cosa che non è chiara ancora di questo ragionamento che abbiamo fatto fino ad ora? La situazione è ancora totalmente in evoluzione, naturalmente, quindi non so. Cristiano? Ma direi che la posizione del sindaco mi sembra molto chiara, in realtà. E il problema vero è che purtroppo per il quarto anno di fila, per un motivo o per un altro, c'è ancora qualcuno che si trova in una situazione di incertezza. E poi, ripeto, il rischio maggiore in questa fase deriva forse dal fatto che alcune di queste delibere, molte di queste delibere adottate in ritardo, sono in realtà pubblicate sul sito delle finanze, e questo, al di là della soluzione che verrà adottata, genera nei cittadini una situazione di oggettiva incertezza, certo, o addirittura potrebbe mettere qualcuno in errore, perché non dimentichiamolo, se noi leggiamo la normativa base, quella che adesso sta nella manovra Salva Italia, ci dice che le delibere valide sono quelle pubblicate sul sito delle finanze dal 28 di ottobre. Esattamente, esattamente, lo segnala anche un ascoltatore, Renzo, che ci aveva già espresso questa precisazione al 349-238-6666. Beh, insomma, noi rimaniamo qua in attesa di capire come evolverà la situazione. Intanto grazie a Guido Castelli, presidente di IFEL ANCI, buona giornata della fiscalità dell'ANCI. Di Ascoli, e sindaco di Ascoli, soprattutto, direi, mi soffermerei soprattutto su questa qualità. Grazie, sindaco, buon lavoro anche a lei, naturalmente. Allora, le ultime domande da assegnare ai nostri ascoltatori, peraltro per chi questo saldo benedetto deve pagarlo a dicembre, perché vive in un comune che ha già fissato secondo i tempi prefissati e su cui il governo è stato rigidissimo, appunto, e quindi deve versare entro il 16 dicembre. Intanto dobbiamo dare, Mirko Mion, le tecnicalità di questo pagamento. Dobbiamo versare la stessa identica rata che abbiamo versato a giugno, e soprattutto come si calcola appunto l'imposta complessiva? Ci rifà un po' l'ABC della TASI? Vabbè, riprendendo un pochino vabbè, appunto, l'ha detto con un non le è piaciuta tanto la domanda, come dire? No, assolutamente no, ero ancora sul col pensiero a questa, al ragionamento del sindaco, doppia sì. velocità del sistema, no? Se, sotto un certo profilo qui epicentrica è la casa. Abbiamo fatto una trasmissione la scorsa settimana dove parlavamo appunto di trasparenza in riferimento al fatto che vengano messe a disposizione i metri quadri in una fase prodromica alla futura e auspicabile sì, esatto, il catasto online sì. La settimana dopo siamo in una situazione di grande incertezza, come diceva giustamente dell'host, indipendentemente dal fatto che siano state o meno deliberate, che siano state deliberate, ci siano state delle delibere in tempo o over time, che abbiano in alcuni casi confermato l'impianto dell'anno precedente o aumentato, addirittura migliorato, quello che traspare è lo stato di confusione. Cioè anche il cittadino, ricordo Cesare da Lecce, no? O Mario da Padova, dicevo, ho pagato il racconto e saldo a giugno, no? Che sì. cosa mi accadrà? E quindi di nuovo dovrà andare a rincorrere se il comune di Padova ha deliberato per tempo, se non ha deliberato, cioè situazione di grande incertezza, e quindi la necessità è quella che ci sia, speriamo, un impianto finalmente definitivo che dal 2016 possa prendere il passo. Teniamo conto che dal 2012 sino ad oggi ogni anno c'è stata una modifica, certo. addirittura si parla nei corridoi di una sorta di mini TASI, no? Come ricordiamo nel 2014 la mini IMU. In pochi ci crediamo che scompaia definitivamente, mi non le dico la verità, ci sono anche tanti ascoltatori che stanno facendo questo ragionamento attraverso i canali con cui possono mettersi in contatto con noi. Abbiamo capito perfettamente la logica del suo ragionamento, le richiedo, ringraziandola, appunto le modalità di calcolo per chi le avesse dimenticate, Mion. Sì, la base è, ricordiamo, la TASI è stata istituita all'interno della legge di stabilità del 2014 all'interno di quella che è stata definita questo acronimo IUC, e la tassa sui servizi indivisibili, che serve appunto a finanziare tutti i servizi comunali messi a disposizione del cittadino, come il verde pubblico, la pulizia delle strade o quant'altro. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, che dobbiamo sempre ricordare che è definita ai fini con la stessa definizione dell'IMU, quindi che il possessore risieda e domicili abitualmente all'interno dell'abitazione. La base di calcolo è la stessa dell'IMU, quindi prenderemo la rendita che troviamo sulle misure catastali messe a disposizione del cittadino, opportunamente aumentata di un 5% e moltiplicata per il moltiplicatore delle abitazioni, che è 160. Questa base imponibile sarà utilizzata per il calcolo dell'imposta. Certo, in relazione a questa benedetta aliquota del comune. Esatto, questa aliquota che dobbiamo andare a spulciare, tenendo conto che alcuni comuni hanno deliberato franchigie legate a figli con età differenti, esatto. piuttosto che a franchigie su rendite al di sotto o al di sopra di una certa soglia. Vale la pena anche di ricordare che sono assimilabili alle abitazioni principali anche tre pertinenze che rientrano nelle categorie catastali C2, C6 e C7. Quindi questo è un po' l'impianto. Giusto per fare un riepilogo. Cesare da Lecce, che sta aspettandoci da un sacco di tempo, poi è già giunto il momento di andare ai mercati, non riesco neanche a commentare le novità, ma insomma, siccome è ancora tutto un ventaglio di ipotesi che il governo intenderebbe introdurre, sempre rimodulando la tassazione sulla casa in legge di stabilità, ma ne faremo oggetto in un'apposita puntata. Cesare, benvenuto, rapidissimo, la ringrazio e mi scusi se l'ho fatto aspettare un po'. Grazie, buongiorno. Io volevo chiedere al tecnico, siccome io ho pagato già ieri l'IMU, sbagliando evidentemente, invece del 16 dicembre ho pagato il 16 novembre e ho pagato praticamente la metà di il saldo, che era la metà di quello che ho pagato a giugno. E in questa situazione non ho avuto la possibilità di verificare l'aliquota, ma Nel caso specifico, se la pensa essere aumentato o diminuita, che cosa... Aspetti lì Cesare, allora rapidamente Cristiano Dell'Oste, lui intanto ha pagato, Cesare ha parlato anche di IMU insieme alla TASI, certo. E quindi questa è una precisazione importante da fare, detto questo, aveva fretta insomma di togliersi questo problema, Cesare, detto questo, se Lecce avesse modificato le aliquote in qualche maniera, come può sistemare la sua situazione? Allora. Andiamo con ordine. Sì, chiedo di farlo in 50 secondi, Cristiano, questo ordine, grazie. Allora, Lecce, sto guardando sul sito delle finanze, ha approvato il 13 di luglio sia l'IMU che la TASI, quindi Lecce è uno dei comuni che hanno fatto in tempo. Il nostro ascoltatore deve soltanto verificare se la delibera del 2015 ha aumentato un pochino o meno il prelievo rispetto a quella del 2014. Se si accorge che la delibera è un po' più alta, che l'aliquota è un po' più alta, va a conguaglio, ha tempo di farlo fino al 16 di dicembre, non avrà nessuna sanzione, nessun problema. Se la delibera invece è identica e lui si è attenuto correttamente a quella del 2014, ha pagato il giusto e la legge non vieta di pagare in anticipo. Grazie. Ottimo. Allora, situazione complessa nella quale abbiamo cercato di fare un po' di ordine. Ho la sensazione che se dovesse arrivare qualche provvedimento appunto di sanatoria dovremmo entro il 16 dicembre ritornarci, probabilmente rimetteremo insieme tutti i nostri ospiti di stamattina. Grazie a Mirko Mione, Cristiano Dell'Oste. Io chiedo scusa a Maria Luisa da Firenze che ci faceva una domanda che era un po' al di fuori dell'argomento di questa mattina. Maria Luisa, se ha pazienza, ci scriva a cuoredenari@radio24.it perché noi tempestiamo sempre di domande i nostri ospiti a microfoni spenti, ci danno sempre una gran mano naturalmente nel dietro le quinte del nostro programma. Adesso noi lasciamo la casa, andiamo ai mercati e poi parleremo di tutt'altro perché dobbiamo fare un po' prendere le misure del nostro, non del nostro giro vita, andare un po' più giù, parleremo di grasso addominale, di pancetta, a tra poco. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Pancia, misurati la pancia. Fammela vedere, scopriti la pancia. Con bene o male d'inverno la copriamo su, non la vediamo, ci fa un po' meno male. Certo che quando arriva la primavera con la prova costume magari così avremo l'ambizione anche di infilarci il bikini e lì che sono dolori. Quando la pancetta fa la differenza non solo dal punto di vista estetico ma anche quello clinico. Secondo i risultati di una ricerca fatta su 15.000 persone lungo un arco temporale di 14 anni dall'equipe del dottor Francisco López Jiménez, nutrizionista presso la Mayo Clinic, la pancetta che si metterebbe su sarebbe più rischiosa dei chili di troppo. Ne commentiamo questa notizia con il nostro dottor Massimo Gualersi, cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma, l'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, che salutiamo. Ben ritrovato, dottor Gualersi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, le dico che già stanno arrivando un sacco di messaggi e telefonate perché naturalmente abbiamo proprio colto nel vivo di tante preoccupazioni di molti ascoltatori che ci chiameranno all'800 24 00 24, ci scriveranno i loro messaggi al 349 238 6666. Dottor Gualersi, in tempi non sospetti Nicoletta insieme ai suoi esperti, fra cui lei, ricordo appunto, ha trattato in tantissime puntate di Cuore e Denari proprio questo argomento e aveva messo in guardia sui rischi della pancia, perché il grasso addominale in una persona che è apparentemente normopeso, quello che per intenderci dice di sé non sono grasso ma ho solo la pancia, è un fattore di rischio importante. Insomma, l'uomo di panza non sarebbe più di sostanza? No, diciamo di no, qualche tempo ormai appunto che sappiamo questo, diciamo che è un modo un po' moderno di ingrassare, proprio stiamo diventando persone un po' diverse, quindi non rappresenta più una persona di sostanza ma una persona leggermente più a rischio di sviluppare malattie cardiometaboliche. Un modo diverso di ingrassare, dottor Gualersi, anche questo, come dire, è un segnale dei tempi moderni? Che cosa intende dire con questa espressione? Sì, diciamo che l'uomo moderno non ingrassa più in modo omogeneo come eravamo immaginati, come ci immaginavamo prima. L'uomo ingrassa prevalentemente, oggi uomo o donna che sia, più prevalentemente a livello dell'addome, e questo infatti anche le cause che portano a questo ingrassamento non sono le stesse del passato. Prima si ingrassava mediamente perché si mangiava tanto, si mangiava troppo o semplicemente perché ci si muoveva poco. Oggi in realtà si ingrassa e si mette questo particolare tipo di grasso proprio localizzato a livello addominale perché invece scegliamo cibi sbagliati, perché siamo più stressati e perché magari dormiamo e riposiamo poco. Questo grasso che si forma non è più un semplice deposito di acidi grassi o di riserve, diciamo, lipidiche, ma è una vera e propria ghiandola endocrina capace di produrre sostanze tossiche per la nostra salute, quindi è un vero e proprio organo aggiuntivo. Lei appunto diceva anche si ingrassa secondo questa modalità perché si fa uso di cibi sbagliati. Questo vuol dire, dottor Gualersi, che ci sono alcuni alimenti che nel momento in cui vengono digeriti e metabolizzati hanno proprio questa capacità di andare a depositarsi proprio lì, in quell'area del nostro corpo? Ma più che i cibi che si depositano lì, hanno inducono delle, diciamo, delle stimolazioni ormonali, tipo appunto al centro di tutto c'è l'insulina, questo ormone che viene stimolato da questi cibi iperraffinati che oggi scegliamo e che sono anche quelli che ci colpiscono più per la gola o per il senso di, diciamo, di bontà che rappresentano, e che appunto sotto lo stimolo di questo ormone vengono internalizzati non in tutto l'organismo ma in determinati punti, e la pancia è uno degli organi target in cui vengono, diciamo, collocati questi grassi. Certo. Allora, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, anche per raccontarci un'altra cosa, della quale chiedo subito chiarimenti al dottor Gualersi. Vorremmo chiedere ai nostri ascoltatori, lo abbiamo fatto anche anticipando prima l'approfondimento di cuore, di schierarsi e di descriversi attraverso la classica immagine della pera o della mela o di un altro frutto a loro piacimento. No, queste tipologie che vengono usate per descrivere la distribuzione del grasso corporeo, dottor Gualersi, che cosa raccontano esattamente, al di là, come dire, dell'immagine folcloristica che possiamo rilasciare ai nostri ascoltatori? Ho sentito male, diceva a pera o a mela, no? Sì, esatto, i due tradizionali, ce ne sono anche altri? No, diciamo che sostanzialmente possiamo identificarle in questi due modi, quindi a mela un pochino più il modo di ingrassare anche qui, che in passato si attribuiva più all'uomo, quello che ingrassava più nella cintura addominale, nella schiena, nei fianchi, mentre quella pera localizzata un pochino più nelle cosce, nel sedere, insomma più tipico delle donne. Questi due modalità di ingrassare rappresentano due diciamo attitudini diverse, ma anche due stimolazioni diverse. Diciamo che a pera è un grasso che si distribuisce più per origine, per diciamo stimoli ormonali, quindi più tipicamente della donna che subisce appunto attraverso i propri ormoni sessuali una deposizione del grasso in zone che poi potranno essere utili in determinati momenti, come anche ad esempio durante la gravidanza. Mentre a livello, diciamo, addominale, lo stimolo viene dato più dagli ormoni legati allo stress, più tipicamente, almeno atavicamente, era più legato all'uomo. Oggi devo dire che la sembianza a mela, cioè quella che deposita il grasso a livello centrale, è più responsabile gli ormoni dello stress, è tipica sia degli uomini che delle donne, quindi anche le donne oggi ingrassano a mela più come gli uomini in passato. Chiarissimo. Mary da Prato, buongiorno. Allora, lei buongiorno. A quale categoria di frutto mi appartiene? Ma forse alla pera. Quindi è proprio quella tipica di quella donna che tende un pochino ad arrotondarsi, mettiamola così, nella zona del sedere, delle cosce, no? Ecco, quella parte bassa là, che insomma per qualcuno è anche una cosa gradevole. Molti uomini dicono che insomma di gradire questa conformazione fisica, però insomma a noi invece non sempre piace molto. Mary? No. Allora, io gli spiego una cosa. Io sono entrata a menopausa da poco, cioè da aprile, e niente, vedo che la persona, io veramente sono cambiata, ho una pancetta abbastanza evidente e poi ho visto anche un cambiamento della pelle, e sinceramente ho paura di sballare il tutto, cioè sto parecchio attenta all'alimentazione, un po' del movimento, cerco di camminare il più possibile, certo, prendere la bici. Ma sentiamo se può fare anche dell'altro, Mary, magari ecco, qualche appunto, integratore che possa aiutarla a sostenere questo momento così delicato della fase di vita di ogni donna. Mary, grazie. No, tra l'altro ha sottolineato anche una cosa, dottor Gualersi, Mary, no? Sì. Non l'ha detto proprio esplicitamente, però effettivamente non è la prima volta che lo sento dire, me lo hanno raccontato anche molte mie amiche, si assiste a dei cambiamenti in questa fase della vita della donna che sembrano proprio completamente incontrollabili. È così, esplode improvvisamente questa pancia, cambia anche la qualità della pelle, diceva Mary. È vero, effettivamente, noi possiamo fare molto, controllare l'alimentazione, muoverci un po' di più, ma tutto quanto sembra non bastare mai. Cosa si può fare di più? Beh, in realtà bisogna mettere attenzione sul fatto che spesso stiamo attenti alla dieta, ma non stiamo sufficientemente attenti o non stiamo attenti nelle cose che più impattano su questo aspetto. E anche sull'attività fisica devo dire che spesso si definisce attività fisica cose che mediamente non impattano molto su questo aspetto. Sicuramente quando si arriva nell'età della menopausa, quando inizia la menopausa, perdiamo ormoni che tra l'altro in prima istanza mantengono un po' più diretto il metabolismo e sostanzialmente ci fanno eliminare molto meglio il sale. Quando questi ormoni non ci sono, il metabolismo si abbassa, e quindi se facciamo le identiche cose che abbiamo fatto fino a quel momento, tendiamo ad ingrassare, ma soprattutto tendiamo a ritenere liquidi attraverso il sale, ecco. Quindi mangiando la stessa quantità di sale che si mangiava prima, si trattiene a quel sale, ecco che ci si espande di volume, le cellule perdono comunicazione l'una rispetto alle altre perché vi si interpone del liquido, quindi non ci sono più scambi energetici, non c'è più comunicazione, c'è ristagno di liquidi, c'è l'inizio della cellulite, le mani si gonfiano e quindi è una cascata. Ecco che una buona norma, al di là di sto attento alla dieta, mi sento di dire per le donne che entrano in menopausa, è stare attentissime al sale, soprattutto quello nascosto nel cibo, e di fare un'attività fisica molto mirata ma anche molto intensa, perché mediamente finiamo sempre per fare un'attività fisica molto meno intensa rispetto ai certo. bisogni. Dottor Gualerzi, integratori, invece Mary può essere aiutata con qualcosa di diverso o qualcosa in più rispetto ai suggerimenti già molto pratici e concreti che lei ci ha dato? Beh, diciamo che integratori, mi verrebbe da sdoganare adesso un integratore che è andato anche abbastanza di moda, e soprattutto lo leggo al fatto della pancia, no? Di questa, come ha detto Mary, che sta mettendo sulla pancetta. Spesso dopo la menopausa si altera un pochino il rapporto sonno-veglia, quindi si dorme anche di meno, si sveglia di più. Ecco che dormire poco fa ingrassare, la melatonina, ad esempio, la passiflora, integratori fatti di melatonina, passiflora, magnesio, spesso si trovano anche in combinazione, aiutano a abbassare il cortisolo, a riposare meglio, a migliorare gli scambi energetici e quindi a produrre autonomamente quegli ormoni che non vengono più prodotti se non dormiamo bene. Chiarissimo. Quindi allora un po' di melatonina, un po' di passiflora, insomma procediamo per gradi e vediamo se tutto questo può aiutarci. Intanto anche su WhatsApp, perché vi dico che noi possiamo leggere anche secondo questa modalità da qualche giorno i vostri messaggi. C'è un ascoltatore che ci scrive, credo che sia un ascoltatore, 29 anni, 1,79 m, 66 kg di peso, sono di corporatura magra ma ho avuto da sempre, fin da piccolo, la mia pancetta. Come posso redistribuire il grasso addominale? A 29 anni credo che una buona, intensa, sana attività sportiva possa aiutare molto. Se lei non la fa, ma magari ci scriva qualche dettaglio in più, ci spieghi anche se la sta facendo e magari non è quella adatta. Intanto il traffico e torniamo con Pietro da Milano e Salvatore da Brindisi tra pochissimo. Cuore e denari. Nessuno dirà che è grasso perché mangia troppo. Allora viene da chiedersi: la gente soffre di una strana forma di amnesia? Oppure veramente non mangia in proporzioni tali da giustificare quanto pesa? In alcuni casi è davvero la quantità a fare la differenza, ma in realtà per mettere sulla pancia non è necessario introdurre enormi porzioni di cibo. Sono altre le componenti che determinano il nostro aspetto moderno di persone tendenzialmente magre ma con la pancia. Alla base di questo bizzarro modo di ingrassare, come anticipato, ci sono due ragioni principali: la qualità degli alimenti e il modo in cui li consumiamo. Ed effettivamente così, ce lo diceva anche il dottor Gualerzi in avvio di questa parte di Cuore della nostra trasmissione. 800 24 00 24, stiamo discutendo di fatti e misfatti della nostra pancia, pancetta o panciona. Lei lo affronta questo argomento anche nei suoi libri, dottor Gualerzi, in Super Salute. Due sono le ragioni che sono alla base della morbidezza addominale, chiamiamola così con dignità: la qualità degli alimenti e il modo in cui li consumiamo. Ci spieghi un po' meglio, siamo tutti orecchi. Sì, sulla qualità diciamo che un po' abbiamo già detto, nel senso che oggi questa eccessiva ricerca o comunque ineluttabile offerta di cibi super raffinati, super elaborati, fatti sostanzialmente per toglierci in apparenza in modo super rapido la fame, ecco che genera una risposta ormonale alla quale non eravamo abituati, e quindi questo l'abbiamo descritta prima, come questi ormoni stimolati, soprattutto l'insulina, da questi cibi che penetrano immediatamente in circolo, dandoci un senso immediato di sazietà, poi vanno a costituire, diciamo, lo stimolo fondamentale per creare la pancia. Mm-hmm. L'altro aspetto è proprio quello legato un po' più alla cronobiologia, cioè a come e quando noi, nel modo in cui mangiamo. Dico sempre, anche nel libro, e mangiare un panino seduti guardando un tramonto fa ingrassare in modo molto diverso rispetto a mangiare lo stesso panino in automobile intanto che imprechiamo nel traffico, intanto che telefoniamo, perché siamo sostanzialmente degli animali fatti di ormoni, di emozioni, ed ecco che l'attivazione neuroendocrina intanto che stiamo mangiando genera un maggior assorbimento, ma c'è di più, perché quando siamo attivati facciamo fatica a scegliere i cibi migliori, perché se tutti pensiamo quando siamo stressati o quando non pensiamo, ad esempio se andiamo a fare la spesa senza avere la lista fatta, è logico che il messaggio subliminale predomina e andiamo a scegliere i cibi più colorati, più sfarzosi, che poco hanno a fare con i cibi più salutari. Quando entriamo in casa, apriamo il frigo, la prima cosa che ci viene in mente è prendere il cibo più calorico, più dolce, infatti, perché questo genera una sorta di beneficio. Di gratificazione, questo, infatti. Di gratificazione. Esatto. E l'ultimo elemento è quello della stagionalità, quindi anche mangiare fuori tempo vuol dire anche che tendiamo a mangiare sempre gli stessi alimenti tutto l'anno, non ascoltando, non guardandoci intorno, cioè non ascoltando la natura, che in realtà ci farebbe per ogni stagione dell'anno cibi più appropriati per affrontare quel momento e per le nostre esigenze. Allora, questo è un grandissimo cavallo di battaglia del dottor Gualersi, che noi naturalmente apprezziamo sempre molto che venga ribadito. Intanto, gli ultimi 5 minuti di tempo, dottor Gualersi, li dedichiamo interamente ai nostri ascoltatori che chiedono il suo aiuto. Pietro dalla provincia di Milano, benvenuto all'800240024. Sì, buongiorno Deborah, mi scusi, grazie mille che mi avete chiamato. Il mio problema è che io praticamente faccio autista di professione con tanto piacere, però ho un problema che tutto quello che mangio mi sembra che si accumula sulla pancia. Mi autodenuncio in senso buono, che a mezzogiorno non è che mangio proprio come si deve. Problema che mangio veloce la sera e appena che mangio, se perché io arriva a casa Pietro si sbranerebbe pure le sedie, no? 10-20 minuti sono proprio morto. Vabbè, Pietro, insomma, già no, ma comunque il tema importante, dottor Gualersi, è che Pietro ha già una piena consapevolezza dei suoi errori, no? Per cui da questo è fondamentale, ecco. Questo è fondamentale. Ne approfitto per rispondere solo un attimo a dire questa cosa, logicamente la consapevolezza porta anche a poter scegliere di fare un po' di cambiamento, quindi piuttosto di mangiare un po' di più a pranzo e meno a cena. L'altra cosa che voglio dire anche al radioascoltatore di prima, non è tanto la pancia esternamente, nel senso parliamo di grasso che si localizza sotto il piano addominale, mi raccomando, perché la classica maniglia dell'amore o le pieghe che si prendono con le dita, ecco, quelle magari non sono belle esteticamente ma non rappresentano un rischio, stiamo parlando di quel grasso che si va a localizzare sotto il piano addominale, che tutti hanno anche se non sono magari super atrofici questi muscoli, quindi quello che sta al di sotto e si misura bene misurando appunto la vita o il punto vita. Ecco, ci dica un po' allora quale deve essere la circonferenza oltre la quale è bene non andare, perché ci si può rendere conto che appunto questo grasso localizzato dove lei indicava è quello dannoso, dottor Gualersi. Sì, diciamo che passando il centimetro, il metro la sarta, quindi quello flessibile sopra le spinilliache, che sono le ossa che abbiamo nei fianchi, passando attraverso l'ombelico stando in piedi, negli uomini non dovrebbe superare i 94, mentre nelle donne gli 80. Sopra quei centimetri cominciamo a parlare di aumento della circonferenza ombelicale e quindi di un ipotetico rischio, ipotizzando che questa manovra serva proprio per misurare il grasso sotto il piano addominale, non la piega che si localizza leggermente più sotto, di solito l'ombelico. Ecco, mi raccomando, andate a provare, allora prendete il metro della sarta, come diceva il dottor Gualersi, soprattutto non stringetelo troppo per barare sui centimetri, tenetelo morbido e fate la misurazione corretta e leale. Salvatore da Brindisi, benvenuto, rapidissimo, grazie, perché poi vorrei sentire anche Maurizio da Milano, che non è esattamente un frutto, ma con lui passiamo direttamente alla fauna, poi lo sentiremo. Salvatore, benvenuto, veloce, grazie. Buongiorno a lei e al dottore. Innanzitutto vi ringrazio, non è una forma così della vostra trasmissione, della radio in tutto, perché la seguo molto. Grazie Salvatore, vado alla domanda perché poi non abbiamo tempo. Sì, vado alla domanda. Volevo chiedere al dottore, io avendo fatto degli esami, Sì, sì, ci siamo. Mi avendo fatto gli esami, mi avevano detto di una bella steatosi e di un buon numero di trigliceridi. Però che la dottoressa mi ha consigliato di aggiornare un po' la dieta e di fare movimento, cose sì. che io ho fatto, ho mangiato frutta, ho mangiato verdura, e quindi ho ridimensionato quasi in modo naturale, perfetto, la situazione precedente. Però quello che le chiedevo, io non avevo nessuna sensazione, non avevo pancia, sì. non vedevo... Grazie Salvatore, abbiamo capito. Allora, dalla pancetta, quella che abbiamo ben descritto nel corso della trasmissione, dottor Gualersi, si può arrivare anche a preoccuparsi per una presenza di trigliceridi nel sangue un po' troppo elevata? Ma il grasso di cui parliamo si localizza anche all'interno del fegato, non necessariamente fa quindi la steatosi, sì. la pancia, quindi la steatosi è un'altra forma di questo grasso patologico che si localizza. Un consiglio che gli voglio dare è mangiare molti carciofi, molti prodotti ricchi di vitamina E, perché hanno un'azione detossificante sul fegato. Allora, Maurizio da Milano voleva raccontarci che ha la classica forma fisica a merlo, non riesco a farlo ad intervenire, gambe magre, pancia pronunciata, questa l'aveva mai sentita, dottor Gualersi? Beh, diciamo che è una descrizione simpaticissima per rappresentare il fenotipo dell'uomo moderno, cioè sostanzialmente, come avevamo letto prima nel libro, magro, con le gambe magre, la magra, ma la pancia è insomma, l'emblema del nostro uomo moderno. Per combattere la pancetta, attenzione a quello che mangiate, a quando lo mangiate, alla stagionalità, dormite bene, questa è la ricetta del benessere secondo Massimo Gualersi. Grazie per essere stato con noi, buona giornata, presto, grazie a tutti, io ritorno naturalmente domani con la mia Nicoletta, a tutti, buona giornata.